Storie de Noaltri, tradizioni, cultura e curiosità dalle nostre terre. In studio Gesuina Maccari ed Antonio Ceccato. A tutti i nostri cari ascoltatori un saluto affettuoso da parte di Gesi e di Antonio. Benissimo Antonio, adesso ti do la parola perché so che hai tante cose da dire stasera. Diciamo che siamo al solito naturalmente cordiale saluto alle amiche e gli amici di Blu Radio Veneto in questa nuova avventura sulle ali dei ricordi. Il nostro indirizzo internet è bluradioveneto.it e ricordiamo la possibilità di ascolto in streaming relativo download della trasmissione, con un saluto cordiale al nostro regista e al nostro coordinatore. Parlando di internet, parlando di tecnologia diciamo applicata alla radio, siamo, come dire, orgogliosi, io penso di interpretare anche il pensiero della mia partner nel dirvi che abbiamo circa 3600 contatti su internet. Allora qui mi pare che si stravolgono un po' le teorie, che naturalmente il nostro uditorio non è di ragazzini di primo pelo, e per contro si dice che gli anziani o quantomeno i diversamente giovani siano alieni dalla come posso dire tecnologia. Questo dimostra che non è assolutamente vero. Noi abbiamo molte persone, molte signore e signori anche in là con gli anni, che si dedicano a questo nuovo strumento, che poi è uno strumento uguale alla penna, diciamo, è semplicemente più sofisticato, ma è semplicemente ancora uno strumento. Allora queste cose ci fanno piacere perché fanno capire che noi non siamo in fase di degrado, anzi diciamo che l'età avanzata può essere una barriera, può essere un argine al degrado che è sempre imperante. Noi vogliamo reinventarci. Reinventarsi è il titolo di un libro di Mario Alonso Puig, che è un gastroenterologo di origine spagnola che lavora all'università di Harvard e fa anche il formatore oltre che il medico, e ha scoperto che reinventarsi è una cosa assolutamente non solo utile ed opportuna, ma necessaria. Ecco, noi con la nostra trasmissione, con le nostre chiacchierate e grazie ai nostri ospiti straordinari, speriamo di avervi dato un assaggio di questa reinvenzione. Vorremmo che voi portaste, diciamo, come ultima trasmissione della stagione, il ricordo di quello che abbiamo fatto e come, diciamo, anche auspicio di nuove trasmissioni, se Dio vorrà, naturalmente, per la prossima stagione. Perché riteniamo che, sì, se riusciamo a dare un po' di compagnia e soprattutto a non piangerci addosso e non piangersi addosso, questo è fondamentale, e questo ci possa consentire di avere un pochino di più, come dire, di vita piena davanti nei prossimi anni. Questo è il nostro augurio. Bene, in ogni caso. Noi lo auguriamo a tutti i nostri ascoltatori di avere tanta vita davanti e possibilmente serena, di ascoltarci anche così. Sì, per lo meno un'ora potranno stare in compagnia con noi, gradita, ecco, per carità, perché non ci siamo solo noi, ma insomma ognuno tira l'acqua al proprio mulino, vero? Allora questa, come ha detto Antonio, è l'ultima trasmissione, poi appunto a Dio piacendo riprenderemo in autunno e proseguiremo con questo tipo di trasmissione, non so, forse faremo qualche innovazione, vediamo un po', insomma. Ecco, intanto ringraziamo tutti e cominciamo con il nostro programma. Stasera abbiamo un ospite virtuale che è la giornalista Elena Pilato, che parlerà, mi pare, della zona di Moriago, ma comunque ve lo dirà lei. Adesso ci ascoltiamo la prima canzone e poi avremo al telefono la signora Elena. Allora, la prima canzone è cantata da Giuni Russo, forse la ricorderete, che è morta prematuramente, ed è intitolata Un'estate al mare. Shabala, shabala, shabala, shabala. Per le strade mercenarie del sesso che procurano fantastiche illusioni, senti la mia pelle come vellutata, ti farà cadere in tentazione. Eccoci di nuovo in studio, volevo informarvi che dalla prima domenica di luglio ci saranno le repliche che Antonio ed io abbiamo cercato di scegliere come ci pareva meglio, insomma, ecco. E adesso abbiamo al telefono la giornalista Elena Pilato. Pronto? Carissima, ciao Elena, buonasera. A voi, ben ritrovati, carissimi. Sempre come un piacere. State? Bene, bene, grazie. Sì. E tu? Anch'io, e sentirvi mi dà sempre molta gioia, davvero. Sì, è reciproco. Ah, grazie. Elena è anche contenta in questo periodo, perché sì, a settembre... particolarmente. Ecco, Elena convolerà a giuste nozze il 20 settembre. Oh, questo è uno scoop, diciamo. Grazie di aver sottolineato questo, che è un evento che arricchisce, impreziosisce, certo, le vite. Davvero. Certo, è vero, è vero. Grazie di cuore. Allora Elena, di che cosa ci parlerai questa sera? Allora, la meta del nostro viaggio è Moriago della Battaglia. Ritorniamo laddove, voi sapete, io adoro il quartier del Piave, e ritorniamo lì dove ci eravamo lasciati in marzo a Vidor, però questa volta, questa sera, toccheremo Moriago della Battaglia, che nella zona è una zona pianeggiante più a sud, sempre lambito da il caro e sacro fiume, una zona che a dispetto del nome Moriago mi colpisce sempre, perché invece è una fioritura, una gemmazione, uno sbocciare di bellezze naturalistiche, paesaggistiche. E poi, va detto, il nome lo racconta in sé, la seconda parte del nome ebbe un valore determinante, decisivo nella nostra storia del Novecento e della nostra libertà di nazione, proprio in seguito a determinati drammatici eventi della Grande Guerra. Quest'oggi per cui esploreremo Moriago della Battaglia e spero di offrire qualche spunto ai nostri ascoltatori per eventuali gite, visite ed esplorazioni dei luoghi e dei dintorni attorno a Moriago. Bene. Allora, io procederei intanto raccontandovi questa origine della parola un po' così singolare, Moriago. Moriago ci fa ritornare all'Impero Romano, per meglio dire alla penetrazione romana in queste zone, perché questo termine, Moriago, per alcuni studiosi viene ricollegato alla figura di un veterano che combatté in queste zone, tale Maurilius, che diventa poi nelle evoluzioni dei termini Mauriliaco e da cui poi Moriago. Per altri autori e studiosi invece questo termine, questo nome ha un collegamento alla struttura difensiva, e facciamo un salto per cui in epoca medievale, a questi muri che sono ancora visibili in parte, questi muri a secco che servivano da difesa, da protezione del centro storico della cittadina. Per altri invece si parla di una derivazione strettamente legata alle caratteristiche paesaggistiche. Siamo in zone pianeggianti ma anche paludose, e si ha un termine di muore il lago, che diventa poi, questa espressione viene sintetizzata in Moriago, perché una delle peculiarità naturalistiche di Moriago è proprio la presenza dei palù, questa ricchezza, questa particolarità naturalistica di una zona ricca di risorgive, di acque paludose, ma se vogliamo per certi aspetti anche con un loro ecosistema intatto, inviolato, inalterato, che ogni volta che personalmente attraverso, percorro, mi dà delle sensazioni e delle eco poetiche, liriche, proprio di zona inviolata, quasi fiabesca. ricerca e che poi approfondiremo. Ma tornando al nostro, alla nostra, diciamo, premessa terminologica, che cosa ci spiega? Che cosa ci dice? Ci dice che Moriago è stata, la storia di Moriago è stata cadenzata dalla presenza fin dall'età del bronzo dell'uomo, poi chiaramente dall'egida dell'impero romano, e ci porta ad esplorare la vocazione produttiva di queste zone, che è stata una vocazione essenzialmente pastorale, ma anche agricola, e poi via via anche artigianale, e poi scopriamo dal tesoro di queste zone altre particolarità, altre ricchezze, l'artigianato collegato al giunco che diventerà poi, per funzioni di mobili, di esportazione, sì, sì, giunco legato, Gesuina, a delle piantagioni particolari lungo il greto del Piave che vengono chiamate venghe. Le venghe del Piave, non so se ne avete sentito, vi è giunta notizia, ne avete sentito, ne avete letto a riguardo? No, personalmente no. Queste venghe in realtà sarebbero i rami freschi, ancora i virgulti, diciamo, del salice, che per la loro morbidezza, manneggevolezza, sì, esatto, e flessibilità, infatti, si prestano, e di cui è ricchissima la zona attorno Moriago, si prestano alle lavorazioni di ceste e via via anche di veri e propri complementi d'arredo. Sì, anche ecco di sedie. No, sedie di giunco, sì. Anche sedie. E la zona di Moriago si è proprio specializzata, oltre, come dicevo, ai raccolti, ai foraggi, nelle prime fasi della storia dell'agricoltura. Nel periodo medievale avevamo soprattutto, per così dire, le coltivazioni classiche cerealicole. Poi è stata questa specializzazione proprio da parte dell'uomo che ha scoperto come utilizzare le ricchezze della zona anche, come vi dicevo, per l'artigianato. Per cui ecco che ritorna quanto consideravo e sottolineavo nella mia premessa, non possiamo proprio dire una zona, per così dire, di depressione e di morte, che in realtà poi però trova una sua giustificazione dal punto di vista storico, ma questo è un altro capitolo che toccheremo più in là. Sì, scusa Elena. Sì, ecco, sì. Prima di ascoltarci la canzone volevo chiederti, si chiama Moriago della Battaglia? Moriago della Battaglia perché è stato, il suo nome è stato completato nel 1962 con un decreto del Presidente della Repubblica, proprio per omaggiare il tributo e il sacrificio di sangue dei fanti e degli arditi nell'ottobre del 1918. Bene. Sì, il nome completo, Gesuina, è Moriago della Battaglia. Benissimo. Allora Elena, ci ascoltiamo una canzone e poi torniamo da te. Allora ci ascoltiamo Renato Zero che ci canterà Spiagge e andiamo al mare ancora. Spiagge immense da sola te, spiagge già vissute, amate poi perdute, in questa azzurrità, fra le conchiglie e il sale, tanta la gente che ci ha già lasciato il cuore. Spiagge corpi abbandonati, di attimi rubati, mentre la pelle brucia brucia, un'altra vela va, fino a che non scompare. Quanti segreti che appartengono al mare. Un'altra estate qui e un'altra volta qui, più disinvolta e più puntana che mai. Mille avventure che non finiranno se per quegli amori esisteranno nuove spiagge di cocco e di granite, di muscoli e bikini, di straniere e di bagnini, quel disco nel jukebox suona la tua canzone, per la tua storia che nasce sotto l'ombrellone. Un'altra vera va, fino a che non scompare. Quanti segreti che appartengono al mare. Un'altra estate qui e un'altra volta qui, più disinvolta e più puttana che mai. Mille avventure che non finiranno se per quegli amori esisteranno nuove spiagge dipinte in cartolina. Scrivo, tu mi scrivi, poi torna tutto come prima. L'inverno passerà tra la noia e le piogge, ma una speranza c'è che ci siano nuove spiagge. Eccoci di nuovo in studio con la nostra amica Elena, alla quale lasciamo la parola. Grazie, grazie. Allora, continuando sempre sulla nostra evoluzione storica che riguarda Muriago, diciamo che lo troviamo al centro sia dei primi insediamenti, come abbiamo detto appunto nell'epoca preistorica, l'età del bronzo, sia anche nel periodo romano, documentato anche in questo caso da vari ritrovamenti, da varie vasellame, anche da vere e proprie necropoli, tombe dell'epoca romana, e poi una Muriago attaccata, per così dire, anche dalle orde barbariche, che però, e qui apro una parentesi molto importante, in questo caso, nel caso di Muriago, è il paesaggio, come sarà poi per la non molto lontana Venezia a determinarne l'origine, anche in Muriago saranno proprio le zone paludose a rivelarsi poi zone preziosissime perché accoglieranno in una sorta di alveo protettivo e permetteranno quasi alla popolazione indigena, i cosiddetti ai moriaghisi di allora, di salvarsi dalle popolazioni, dalla ferocia invasiva delle popolazioni barbariche. Ed è proprio lì, per cui intorno all'anno 1000, che la popolazione di Muriago comincia a comprendere quale tesoro, quale ricchezza potesse arrivare dai fondi, dai territori che ne circondavano il centro urbano. Centro urbano che era stato determinato e anche costruito, strutturato, se vogliamo, proprio su impronta romana, ovvero, se andiamo un po' anche le nostre memorie delle immagini dei sussidiari elementari, un centro abitato circondato da una sorta di strada carrabile e protetto da alcune mura. Ebbene, a Moriago, oltre questo centro, c'è oggi una frazione, una piccola frazione che si chiama Musnigo, e a nord di questa frazione i Palù, la zona paludosa che letteralmente accolse, ospitò, salvò i moriaghesi da quella che poteva essere una decimazione indotta dal contraccolpo di queste popolazioni che arrivavano da nord. E infatti i Palù poi daranno sostentamento, daranno vera e propria vita laddove si pensava che il terreno in fondo non fosse poi così addomesticabile o in fondo così lontano da una docilità da convertire poi nelle coltivazioni agricole. E invece fu tutt'altro. E per approfondire il capitolo legato ai Palù, vi voglio regalare una mia prima sensazione di quando li ho percorsi. La mia conoscenza, il mio incontro con i Palù avvenne durante una gita elementare. Frequentavo, mi pare, la quarta elementare. Pensa un po'. Sì, e per cui andiamo a ritroso un pochino, sì. Sì. Beh, insomma, ebbene, non tantissimo, dai. grazie, veramente troppo buona, Cecilia. E mi colpì la differenza. Arrivammo a Moriago e c'era da accoglierci dinanzi agli occhi la classica pianura campagna dell'Alta Marca. Mi colpì da lontano questi alberi, questa vegetazione, questi che si intravedevano, questi recinti particolari che capivo non avevano nulla di costruito, creato dall'uomo, ma dimostravano invece una sorta di spontaneità naturale, mi facevano pensare quasi a un orto botanico naturale. E infatti questa mia percezione fu pienamente corrisposta quando li attraversammo ed eravamo tutti col naso lì in su e bocche aperte, perché Gesuina ed Antonio, siamo nei Palù di Moriago, siamo di fronte a una sorta di banca genetica naturalistica, nel senso c'è una fioritura di piante, di alberi, di sottobosco, di varie specie animali, di uccelli, di insetti. È una meraviglia ed è un parco naturale detto proprio dei campi chiusi, 1000 ettari a nord di Moriago, o se vogliamo aiutare i nostri radioascoltatori, e poco più a nord della frazione di Musnigo, per essere proprio corretti, e compaiono queste particolarità proprio strutturali, perché i Palù, oltre ad essere un insieme di zone paludose, di risorgive, di acque anche fluviali, perché di lì a poca distanza, oltre ad esserci il Piave, però ci sono dei piccoli torrenti, il Rosperre, il Rabuso, che toccano anche queste zone, ebbene, come vi accennavo poco fa, siamo di fronte a un documento naturalistico peculiare, con dei paradigmi che non troviamo altrove. Abbiamo questo intrecciarsi di bellezze arboree e anche arbustive, perché è pieno di noccioli, e la particolarità è che qui non c'è una centuriazione romana, cioè una strutturazione dei campi agricoli dell'epoca romana, c'è proprio una caratteristica maglia di prati recintati naturalmente da arbusti e da alberi, e parliamo di una varietà infinita: querce, puntani, platani, pioti. Vi lascio visualizzare ed immaginare, e sotto queste fronde c'è un sottobosco fatto di tantissimi tantissime piante. Mi viene in mente ad esempio una pianta particolare su cui mi sono documentata, che si chiama proprio equiseto, così equiseto, è il termine botanico esatto, che ha, ricorda un po' le felci, solo un fusto ben più alto, centrale, con un interno cavo e delle foglie meravigliose, ornamentali, ma è solo una delle tante. Poi ci sono, anche qui ricorrono i sassi, anche degli aceri e degli olmi campestri, per cui c'è una ricchezza che smentisce un po' l'idea della palude come zona di stallo naturalistica, tutt'altro. E se voi avete la possibilità di vederla dall'alto, vi regalate un viaggio sulle colline attorno del Soligese anche, potete notare che è un comune, perdonatemi l'iperbole, ma sembra una sorta di con la foresta amazzonica vista dall'alto. Un ambiente unico, quindi. Sì, sì, esatto. Sì, i palù sono una meraviglia, e vi devo anche aggiungere, per così dire solleticare anche chi ha proprio una passione specifica per il mondo vegetale, ma anche faunistico, floreale, che qui abbiamo delle specie di fiori improbabili. Ad esempio c'è il giaggiolo siberiano, che fiorisce tarda primavera, maggio, e che riempie di un viola straordinario, splendido, tutti prati all'interno dei ricci. Che meraviglia, mamma mia. È una meraviglia. Sconosciute più, altro penso. Che vivere in città, in mezzo all'asfalto. È una e guardate la sensazione poi di concerto campestre, perché è il picchio e poi addirittura il martin pescatore, perché zona in cui si pescavano le anguille fino ad anni or sono. Per cui sì, si pescavano le anguille, perché c'è questa inviolabilità, questo sentiero itinerario naturalistico che a tutt'oggi viene mantenuto, tutelato, salvaguardato, ed è un fiore all'occhiello dell'ambiente moriaghese, per così dire, perché proprio è gestito da un punto di vista amministrativo, passatemi il termine, proprio dall'amministrazione di Moriago, per cui un vanto di cui andare fieri e tutto da scoprire, tutto da esplorare. Bellissimo, bellissimo. Sì. Allora Elida, ci fermiamo un momentino per un'altra canzone e poi torniamo. Bene, allora ti ascoltiamo come terza canzone. Canzone blu di blu, sì, Tony Renis. Di Tony Renis. Esatto. Aperto gli occhi come al solito è mattino, sì, però stavolta non ti ho vicino. Sei partita ieri sera, tornerai tra poche ore, sì, lo so però che vuoto al cuore. Non so più restare solo, fumerò una sigaretta, no, il tempo no, non va più in fretta. Forse è meglio la chitarra, inventare una canzone per sentirti qui vicino a me. Canzone blu, azzurri sono i sogni come azzurri sono gli occhi che hai tu. Canzone blu, sentimento chiaro come chiaro quel sorriso. Che sentirai questa canzone. Io non ho mestiere ma una gran passione. Vieni, vieni poesia, vieni, vieni melodia, mi farete un po' di compagnia. Quando tu sarai tornata, devo averla terminata, questa strana pazza serenata. Ma di colpo l'impressione che ho finito la canzone, torna presto e te la canterò. Canzone blu, azzurri sono i sogni, come azzurri sono gli occhi che hai tu. Canzone blu, sentimento chiaro, come chiaro quel sorriso che fai tu. Eccoci di nuovo in studio con la nostra Elena. Seguirei sempre con la bellezza, questo vaso di Pandora naturalistico che sono i palù, citando, è doveroso, il ruolo centrale svolto dai monaci in questa zona, proprio specificamente sempre parlando dei palù, la loro opera di mantenimento, di bonifica inizialmente e anche, passatemi il termine, di convivenza e integrazione tra gli aspetti delle coltivazioni, quelle arboree e quelle più legate ai prati, è assolutamente indiscutibile. Ricordiamoci la vicina abbazia di Vidor, che sì, fornì prima con i cistercensi, poi camaldolesi, sì, fornì un'opera di rispettoso intervento anche nella zona dei palù, ed è grazie forse sicuramente all'eredità dei monaci, poi perseverata, continuata dalle popolazioni del luogo, che oggi secondo me i palù rappresentano l'equilibrio tra presenza dell'uomo, vocazione agricola e patrimonio naturalistico intatto. E se mi consentite, io darei anche una mia visione, per così dire, perdonatemi, forse può apparire eccessivamente lirica, ma per me c'è molta sacralità guardando i palù, proprio da un punto di vista rappresentativo, e vi spiego subito. Ogni volta che li percorro mi sembra di entrare in un'abbazia cistercense. Belli che sono. E questi, sì, sì, questi recinti mi ricordano le arcate. E allora tra me e me rifletto e dico, qui l'uomo, proprio negli aspetti olfattivi, visivi, acustici, è riuscito a ricreare una metafora del sacro, anche se volete del tempio, perché le radure boschive, presso anche antiche culture, sono un po' un'immagine metaforica di una cattedrale quasi, ed è così che io sempre, diciamo da grande, vissuto dal punto di vista proprio lirico, questo riecheggia in me ogni volta che attraverso questa meraviglia naturalistica di questo parco naturale, e mi piaceva condividerla con voi, con i nostri radioascoltatori, e vi inviterei davvero ad immergervi in questa spettacolare ricchezza naturalistica. I palù vi attendono, ecco. È un caso particolare, forse non dico unico, ma sicuramente raro, di, come dire, equilibrio nel quale l'uomo non ha antropizzato in modo brutale tutto l'ambiente che lo circondava. Non so se sei d'accordo. È proprio così. È rimasto intatto. È rimasto veramente, c'è una sorta di muto dialogo tra la zona, per così dire, popolata, toccata anche dall'economia, dal progresso, e ciò che da sempre rappresenta la culla per tutta, per ogni forma vitale. Per cui sì, un rarissimo caso a cui guardare per la sua esemplarietà. Ma guarda che è una cosa stupenda oggi. Stupenda. Guarda, che siamo veramente... E quindi a vedere un ambiente del genere ti dà proprio la voglia di vivere. Sì, esatto, ed è per questo che io, quando ho iniziato questo viaggio, questo approdo nell'itinerario di Moriato, l'ho sempre adorata, perché a dispetto di questo nome in realtà nasconde, ripeto, un continuo sbocciare di vita a cui tutti apparteniamo, proprio un grembo vitale della madre terra che qui tocca gli apici davvero. Sì, il nome Moriago contrasta con la vitalità del luogo. Esattamente, e quasi viene quasi compensato dalla vitalità naturalistica, paesaggistica circostante. E poi, che dirvi, un innamorato da sempre dei Palù era Andrea Zanzotto. Andrea Zanzotto amava passeggiare in quel luogo e non poteva essere altrimenti, da cantore del paesaggio, e da sempre in molte liriche, in molti suoi componimenti ritorna quel veneto proprio delle voci vergini e intatte dell'ambiente, per cui ne è forse il cantore, anzi senza forse, il cantore più sublime, indubbiamente. E io mi sono annotata alcuni versi che magari prima di salutarci vi leggerò. Ecco. Ma puoi leggerli anche adesso, sai. Bene, . Allora ce li ho proprio nel mio ingiallito quadernetto e chiedo scusa, non sono all'altezza, ma ci metto il cuore. No, Elena, non ti prego. Sono dalle prime poesie o dalle ultime queste che... Appartengono alla raccolta uscita, se non vado errata, a ridosso primi degli anni 2000. E la raccolta si chiama Sovrimpressioni, fa parte proprio dei meridiani dell'opera Omnia. E questa, la poesia, o per meglio dire alcuni versi che vi leggo, è proprio intitolata Verso i Palù. Allora, mosaici di luci specchiate, speculate, sottrazioni di luci tracimate, acque innillanti per prati e accerchianti incanti, ardui cammini del verde, intrecci d'acque e di desideri, sul filo di infinite inesistenze, un ultimo raggio di sole li perseguita e li saluta. Molto belli, bellissimi versi. Qui è una sintesi proprio di emozioni, di sentimenti, eccetera. Ed è una poesia non facile, che però contiene, è come uno scrigno che contiene un sacco di tesori. È un vertice, è una sintesi emblematica, e con la raffinatezza di cui era maestro. Universale Andrea Zanzotto amava molto la natura, amava il suo paese, il suo respiro. Nelle sue parole c'è proprio il respiro di quei luoghi. Sì. Beh, molto molto belli, molto emozionanti. Perdonatemi, ma il cuore ha cercato di sopperire alla cosiddetta edizione. tranquillo. Allora adesso ci parli, continuiamo la nostra... Continuiamo il nostro viaggio toccando, come vi avevo preannunciato, l'altro capitolo decisivo, importantissimo, da cui non possiamo prescindere e che ben spiega quella seconda parte del nome, della battaglia. Sì. Veniamo per cui al bagaglio storico, che è strettamente legato alla Grande Guerra, di cui ricorrono quest'anno i 100 anni e di cui in questi giorni cominceranno le celebrazioni, a partire proprio da quel tremendo attentato di Sarajevo che, ahimè, ci consegnò poi ad anni sanguinosi. Ma per quanto riguarda Moriago della Battaglia, Muriago della Battaglia segna la svolta. Segna la svolta di un esercito che era stato sopraffatto a Caporetto, che era per così dire allo sbando per le perdite, che aveva dato tutto se stesso in una guerra di logoramento effettivo, non solo nelle trincee, ma anche lungo il greto del Piave. E il Piave, come sappiamo, sarà il baluardo, sarà poi il vessillo della nostra resistenza, e a Muriago si giocherà lo scacchiere, le mosse finali di quello che era iniziato nel Montello con la battaglia del Sostizio. Siamo a Muriago, la battaglia è iniziata nel giugno del 1918, però a Muriago i fatti salienti sono tra il 26 e il accadono tra il 26 e il 28 ottobre del 1918. Sì, poco e prima che finisce la guerra, insomma. Poco prima, esattamente, sì. E se mi consentite, Gesuina ed Antonio carissimi, non avremmo Vittorio Veneto se non ci fosse stato Muriago della Battaglia. Mm-hmm. E vi spiego perché. Qui ci fu la vera e propria controffensiva del regio esercito, qui diciamolo in maniera molto semplice, del fronte italiano, che decise di sferzare l'ultimo attacco in un punto più, per così dire, debole o inaspettato dell'esercito austro-ungarico, che stava ben appollaiato sulla destra. Sulla sinistra Piave. Noi invece, dalla destra Piave, tentavamo questo affondo che ci tenne occupati, per così dire, per 3 giorni di sanguinosi scontri e che ebbe, nell'alba del 28 ottobre del 1918, il suo culmine con lo sfondamento italiano degli arditi, dei fanti, dei valorosi ragazzi del 99, sì, comandati dal valente e compianto generale Giuseppe Vaccari. E il primo comune ad essere liberato fu proprio Muriago della Battaglia. Vaccari decise di oltrepassare, di tentare il tutto per tutto e di colpire non in più punti, ma in un unico punto. L'esercito avversario decise di farlo nella battaglia di Sernaglia e di Muriago e pose, i fatti gli diedero ragione, e pose il primo comando libero del suo corpo d'assalto, il valoroso 22esimo corpo d'assalto, proprio in località Molino Manente, che è una località che è diventata monumento nazionale d'omaggio, di tributo storico, a Muriago della Battaglia. E a Muriago, proprio sul lembo che si protende verso il Piave, sorge quello che è il Parco della Memoria, noto come Isola dei Morti. Ecco qua. Noto come Isola dei Morti, lo si raggiunge facilmente dalla circonvallazione esterna di Muriago, e poi c'è la via degli Arditi che ricorda questo passaggio delle truppe, e vale la pena sottolineare che erano ragazzi che combattevano per il loro focolare, per difendere le loro campagne, che incontravano in fondo altri ragazzi, per cui quella vittoria, se vogliamo, per certi aspetti, che ci diede la libertà di nazione, fu mutilata per le grandi perdite. Vi basti sapere che solo a Muriago caddero 35.000 sul fronte del italico, del Regio Esercito, e quasi 100.000 sul fronte austro-ungarico. Una mattanza. Proprio sì. Sì, una mattanza, esattamente. L'Isola dei Morti, infatti, oggi è circondata da una, e anche popolata, consentitemi, da una quiete surreale, ma che ben commemora quello che fu un sacrificio di vita per dare la vita, per così dire. Per cui c'è un cippo che è stato costruito proprio con le pietre grezze del Piave, che se vogliamo ogni pietra reca in sé l'impronta di quei soldati, e c'è questo cippo a forma piramidale che colpisce e si conficca nei nostri occhi, nel nostro cuore, anche qualora non fossimo così, per così dire, patriottici, ma non si può dire rimanere indifferenti, perché c'è questo cippo al culmine, al vertice c'è una croce fatta di reticolato, e a, in sommità della croce, che è il simbolo della sofferenza, della passione cristiana, ma Cristo, voglio pensare, che era con quei ragazzi, senza distinzione di bandiera, in quei giorni terribili, e in sommità di questo cippo c'è questa croce, e la cosa che colpisce è che sopra la croce si è volutamente messo un elmetto arrugginito, contorto, sforacchiato, ma che sta lì, memento mori, ma anche memento, se mi consentite, di ammonimento alle generazioni di oggi, alle generazioni future, e forse anche, non cadendo nella retorica, ma a ricordo che ciò non si ripete. Questo è importante. Bene, ci fermiamo un momentino, Elena, poi ci ascoltiamo la quarta canzone in programma, che è cantata da Albano ed è Pensando a te. Onde del mare sono lì. Io qui sulla spiaggia penso a te. Il sole tramonta su di me, ma cosa mi importa se non ci sei tu. Nella mente ho il freddo di un addio. Eccoci di nuovo in studio, vero Antonio, per l'ultima tranche. Oh yes. Ecco, con la nostra Elena. Allora, io continuerei sempre descrivendovi un po' quali sono gli edifici sacri, o per meglio dire le testimonianze all'interno dell'Isola dei Morti. Eravamo fermi al cippo commemorativo a forma di piramide che venne, devo dire, edificato subito, proprio per moto spontaneo dei cuori negli anni 20, per cui poi nel corso diventò una sorta di meta, di monumento proprio da visitare, dove lasciare la nostra partecipazione, il nostro raccoglimento. Poi nel corso degli anni si adoperò molto la parrocchia anche per disporre accanto a una a un segno, a una testimonianza commemorativa, per così dire storica, anche un edificio che fosse un omaggio religioso, e negli anni 50-60 iniziò la costruzione del vicino saccello della piccola chiesa, che contiene una bellissima vergine, una tavoletta di scuola fiorentina che è diventata poi la Madonna del Piave, per così dire anche la Madonna degli Arditi, per ricordare sempre la le guerra, loro gesta, sì, certo, certo, il loro sacrificio, e che è accanto appunto al cippo commemorativo. Poi più in là negli anni ci fu anche una sorta di stele che reca alcuni versi della canzone di Mario, La leggenda del Piave. Ah sì, Dea Mario, sì. Sì, sì, anche altra testimonianza che si può ben vedere, ben presente nell'Isola dei Morti. Poi ci fu anche questo un po' più tardi, più vicino a noi, negli anni 90, edificato un monumento, questo per iniziativa di alcune associazioni combattentistiche, se non vado errata proprio il gruppo Artiglieri di Moriago volle un monumento dedicato alla vita e alla pace, che fu eretto e firmato dallo scultore Mario Bagliana, che è parente di Carlo Bagliana, che abita a Serraglia della Battaglia, che è un'altra figura artistica di spicco di queste zone, scultore bronzeo bravissimo, lo scultore meglio noto come lo scultore dei papi, Carlo Bagliana. Ritornando a questo luogo della memoria, vorrei chiudere dicendo che se a Nervesa, nell'ossario, riposano quelle che sono le spoglie mortali, nell'Isola dei Morti echeggia e ritorna l'anima universale di questi ragazzi, che si incontra secondo me in un abbraccio di pace. Io voglio sempre pensare e credere per pacem ad lucem, cioè si arriva ad un incontro, poi la storia è andata avanti, sì, ad un incontro alla nostra Europa, per cui a un incontro senza sminuire quei fatti che diedero la libertà, diedero un'idea di nazione, però l'abbraccio non ha colore, l'abbraccio è quello destinato a tutti i figli, per cui è un'isola che in realtà, passatemi il paradosso, ma tende le braccia a tutti i caduti di quella grande guerra, per cui luogo della memoria, ma anche luogo oggi della meditazione e dell'incontro, che Moriago, va detto, tutela e salvaguarda in maniera esemplare. Qui ricordiamo, negli anni 2000 ci fu uno spettacolo emozionante tenuto da Marco Paolino e Paolini con Andrea Zanzotto, che raccontarono proprio l'epopea di quelle battaglie, e anche intessendola in fondo con un ambiente che all'apparenza può sembrare metafisico, sfuggente, ma in realtà oggi in quell'ambiente ogni filo d'erba, seppur in questa landa per certi aspetti sabbiosa delle grate, per ogni filo d'erba sembra riportare e ricondurci alla vita di quei ragazzi, di quei giovani che in fondo andavano incontro al loro destino con temerarietà, ma con la consapevolezza nel cuore di doverlo fare. C'era del vero patriottismo. Allora c'era del vero patriottismo. Esattamente, esattamente, ecco. Quella spinta proprio. Sì. Sentire il bisogno di una patria da creare e da ricreare. Bene, per cui con questo direi sì. È la grande, omaggerei la pagina che fa di Moriaco la porta della vittoria, la premessa ai fasti poi del 4 novembre 1918, per cui poi del grande trionfo di Diaz a Vittorio sì. Veneto. E per, diciamo, per ultimare il nostro viaggio andrei a cogliere dal sottofondo di leggende, di tradizioni che caratterizzano sì. Moriago, sorrido perché ho scelto delle leggende che sono un po' particolari, perché hanno un fondo grottesco, che ben ricalca quelle che sono un anche le identità della sapienza e della saggezza popolare. E vorrei regalarvi una leggenda legata a dei minuscoli esseri. È che siamo arrivati proprio addirittura del vivo, magari sintetizzando un pochino. Allora. Proprio sintetizzarla un pochino. Sì, esatto, allora, dare qualche flash così. Sì, qualche flash. Allora, devo usare dei termini dialettali. Bene. La leggenda è quella delle racole della signora Mena, piccole rane della signora Filomena, ambientata a Muslingo. Queste rane, in realtà, la leggenda vuole che fossero diventate delle rane vendicatrici, ovvero ammonivano, perseguitavano i figli ingrati che avevano abbandonato i loro genitori in povertà e in solitudine, gracidando in maniera feroce, proprio perché la signora Mena, Filomena, era stata abbandonata e aveva ammaestrato, aveva allevato attorno alla sua proprietà, sempre lungo i palù, queste rane che per riconoscenza erano diventate quasi delle rane mutanti e avevano questa missione di riscattare la solitudine della signora Mena andando a vendicare nelle case laddove i figli non avevano condotta, per così dire, esemplare nei riguardi dei loro genitori. Ecco, allora siamo arrivati ormai proprio al culmine e un racconto per la prossima volta. Ti ringraziamo, certo. Ti ringraziamo. Grazie moltissimo, mille, Elena. È stato grande. Veramente sei stata grande, è stata una bellissima trasmissione. E addio piacendo. Ci ritroverà la prossima volta. Ciao Elena, grazie tante. Alla grazie. Prossima. Alla prossima. Grazie. Alla prossima. E buone grazie. Vacanze. Ciao, ciao. Buone grazie. Vacanze. Ciao, carissimi. Ciao, ciao, ciao. Allora ringraziamo la Elena. Antonio, noi ci salutiamo, salutiamo i nostri ascoltatori. E addio piacendo, alla ci prossima ritroveremo. Stagione. Ecco, ok. Ciao, ciao. Avete ascoltato? Storie de Noaltri, tradizioni, cultura e curiosità dalle nostre terre. Questo programma lo puoi riascoltare su bluradioveneto.it.